Problemi troppo spesso causano riflessi troppo grossi con il reale, tanto da mortificare intere giornate, lasciando l'amaro tra le parole del sole che nascondo in me, per poi fuggire in anime perse, portando le corse in me e lasciare che le rime eclissino le mie paure, eclissino le mie paure. Forse e rimane un forse, la mia vita ha il sapore dell'onore, stretto tra i denti, amaro come il calore del dolore, purificato tra i venti, caro dazio della mia anima, scritta come una rima che risuona nell'infinito. Problemi troppo spesso causano riflessi troppo grossi con il reale. Forse e rimane forse la mia morte avrà il profumo di un fiore sorretto tra le genti ricordo simile al dardo delle ore purificate della musica del mondo dazio alla mia anima venti a rima che risuonerà un sapore indomito. Problemi troppo spesso causano riflessi troppo grossi con il reale. Problemi troppo spesso causano riflessi troppo grossi con il reale. Con il reale. Forse rimane un forse la mia futura speranza di resurrezione, sorretto vento di dolcezza, di una coscienza poi di maturata sofferenza, verso una nuova freschezza, attraverso un viaggio in rima, sarà il risuonare della mia nuova anima, della mia nuova anima. Problemi troppo spesso causano riflessi troppo grossi con il reale, problemi troppo spessi causano riflessi troppo grossi con il reale. Forse rimane forse la mia vita al sapore dell'onore, stretto tra i denti, amaro come il calore dello dolore, purificato tra i venti, caro dazio della mia anima, scritta come una rima che risuona nell'infinito. Problemi troppo spessi causano riflessi troppo grossi, con il reale, con il reale, con il reale, con il reale. Vorrei volare oltre il dolore, correre in terra nel sapore di labbra tue come mirra, in dono alla nascita di un nuovo cielo che colora nel futuro fuoco della mia vita. Problemi troppo spessi causano riflessi troppo grossi con il reale, tanto da mortificare intere giornate lasciando l'amaro tra le parole del sole che nascono in me, per poi fuggire in anime perse portando le corse in me, lasciare che le rime che eclissino le mie paure. Problemi troppo spessi causano riflessi troppo grossi con il reale, tanto da mortificare intere giornate lasciando l'amaro tra le mie parole del sole che nascondo in me, per poi fuggire in anime sperse portando il corso in me e lasciare che le mie rime eclissino le mie paure. Volare oltre il dolore, correre in terra nel sapore di labbra come tue, di mirra in dono alla nascita, un nuovo cielo che corra nel futuro fuoco della mia vita, della mia vita. Problemi troppo spessi causano riflessi troppo grossi con il reale, problemi troppo spessi causano riflessi troppo grossi con il reale, con il reale, con il reale, con il reale, con il reale, con il reale.